9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 22 di aprile, per inciso venerdì santo, non proprio un giorno per chi crede uguale a tutti gli altri. Questo venerdì santo, per chi crede e chi non crede, comunque venerdì 22 aprile, oggi torniamo su un punto che è inevitabilmente importante e delicato. È importante perché trovate sui giornali da due giorni notizie sulla Fiat, prima perché ci sono stati i conti trimestrali che sono andati abbastanza bene, dico abbastanza perché le quote del mercato continuano a scendere, però insomma per quello che riguarda Fiat Auto dopo la scissione, quelli di Fiat Industrial hanno un po' deluso arrivati ieri, ma quelli di Fiat Auto stiamo parlando di ricavi per 7 miliardi e mezzo, con un profitto, un trading profit che è di 192 milioni, insomma, malgrado difficoltà sui mercati, conti che vanno bene. Ma oggi trovate la novità, che è annunciata ieri, la trovate sui giornali di oggi, cioè l'accelerazione di Fiat per arrivare entro giugno al 46% di Chrysler. Marchionne ha molto accelerato l'ascesa nel capitale della società americana. Tutti sappiamo, abbiamo spesso ripetuto, che il vincolo arrivare al 51% in teoria può avvenire entro due anni ancora, ed era comunque vincolato a una serie di condizioni industriali, cioè la realizzazione di modelli negli Stati Uniti per Chrysler che avessero una buona efficienza energetica, un certo numero di chilometri a gallone, soprattutto poi la restituzione dei denari pubblici che il governo americano aveva impegnato nell'operazione Chrysler. Ovviamente però, siccome è anche collegato al valore di mercato e Chrysler inizia ad andare meglio già da tempo, è in utile operativo, allora la Fiat di Marchionne accelera i tempi e quindi ha definito con il governo americano un protocollo per quale, in cambio dei primi 870 milioni, che sono il primo esborso di capitale fino a questo momento per Fiat per salire in Chrysler. Fino a questo momento la quota precedente è stata assunta in cambio di tecnologie, ecco che si arriva al 46% dell'azienda americana entro giugno, impedendo quindi così che il titolo sia a valori, perché a quel punto il prezzo inevitabilmente di mercato dell'operazione dell'acquisizione salirebbe. E questo 46%, che quindi sanziona per così dire il successo, perché poi si arriverà anche al 51%, perché il 46% poi passi dal 51%, bisogna restituire integralmente i 7,4 miliardi impegnati dal governo americano e quello canadese nell'operazione. Ci sono quattro grandi istituti di credito al lavoro per il rifinanziamento. Non verrà tutto dato con liquidità attuale di Fiat, ma ricorrendo in buona parte al mercato. Bisognerà vedere poi, per ottenere liquidità, se si farà qualcuna delle operazioni che Fiat ha lasciato intendere al mercato potersi fare, proprio a questo fine, la quotazione di Ferrari e così via. Detto questo, questa notizia come è accolta? È accolta come al solito, come nel proseguo delle vicende Fiat da oramai un paio d'anni a questa parte, con un duplice punto di vista. Da una parte c'è chi dice una bellissima giornata per il gruppo e per l'Italia, ovviamente vi sto riferendo le parole del presidente John Elkann, però se prendiamo un quotidiano come Il Fatto Quotidiano, titolo in prima pagina è Fiat bye bye Torino, il gruppo torinese sale al 46% di Chrysler e presto arriverà al 51%. Per avere uno sconto, Marchionne ha indebolito il lingotto tagliando gli investimenti. Questo è il titolo dell'editoriale di Vittorio Malagutti, sono le pagine 2 e 3 del Fatto. Anche secondo me la notizia è la notizia più importante dell'Italia di ieri, al netto di quello che si possa pensare della politica, delle polemiche Tremonti, Berlusconi, per carità, però insomma al di là dell'orticello politico italiano, secondo me la giornata nella quale abbiamo la conferma che il gruppo manifatturiero più importante italiano, pluricentenario, le cui crisi sono state le crisi della manifattura italiana, anzi la manifattura italiana ha avuto meno crisi di quanto non abbia avuto la Fiat, un gruppo che è andato avanti per 100 anni coperto di aiuti pubblici e che da 2 anni non ne ha più, e che ha detto anche in Italia bisogna guadagnare altrimenti non teniamo aperto gli stabilimenti, e anzi non possiamo permetterci di continuare a perdere in Italia, dobbiamo guadagnare come guadagniamo in Polonia, in Brasile, gli asset di forza, e che di questo riesce a fare non avendo modelli, avendo poco investito, poco capitale rispetto a qualunque concorrente, riesce a montare in groppa nella grande crisi, alla crisi di un gruppo americano, grazie ai denari pubblici americani, per arrivare ad avere presenza, rete commerciale, distributiva negli Stati Uniti per la prima volta nel suo secolo, questa è, secondo me, notizia più importante. E quindi io sono per quelli come il fatto che la mettono bene nella gerarchia delle notizie, però il fatto cosa dice? Da una parte c'è il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che dice: penso sia una bella notizia, non è una novità, Sergio Chiamparino è sempre stato di quelli che hanno dato una mano anche per le intese che hanno spaccato il sindacato come a Mirafiori. Dall'altra c'è Maurizio Landini della FIOM che dice: diventiamo intercambiabili con la Polonia. Perché la tesi che è espressa in chi è critico come il fatto è che questa operazione avvenga a carte coperte, perché il Lingotto sia pronto a prendere, insomma, il controllo di Chrysler, però con piani per l'Italia che restano oscuri, e che anzi ci sia dietro una manovra sui bilanci Fiat per avere uno sconto a Detroit, cioè che gli investimenti su cui in cambio delle intese raggiunte attraverso scontri e poi comprovate dal voto maggioritario dei dipendenti come a Pomigliano e come a Mirafiori, in realtà la certezza sugli investimenti, sulla vera intenzione di Marchionne di tradurre in concreto i miliardi che ha promesso per Fabbrica Italia non ci sia, ecco che la manovra sui bilanci Fiat sia stata quella di tagliare gli investimenti per pagare meno le azioni americane. Su tutti i giornali trovate, a seconda degli orientamenti dei giornali, con diverse proporzioni, questi due pedali, per così dire, sulla vicenda Fiat. Io trovo, ma questa è la mia opinione, paradossale che questa, che mi sembra la più strepitosa occasione di crescita, sia pure in un momento di crisi per la Fiat, in una prospettiva mondiale, possa tradursi in una roba in cui in Italia le rompiamo le scatole invece che spingerla a farlo. Però attenzione, perché bisogna riporsi il problema dalle fondamenta. Non solo perché dopo Mirafiori, dopo Pomigliano, ci sono altre tappe aperte del progetto Fabbrica Italia. Per esempio a Grugliasco c'è il capitolo che riguarda Expertone, lì è una vicenda che riguarda 1100 quasi lavoratori in cassa integrazione da lunghissimo tempo, da anni. La proposta Fiat è quella che ha rilevato la cosiddetta ex Bertone, non c'entra più niente, è la proposta di adottare regole di produttività per salario orario e per turni eccetera, analoghi a quelli di Pomigliano e Mirafiori. La ex Bertone, la FIOM, è maggioranza altissima, più del 70% dei dipendenti sono FIOM, la FIOM dice no, sono 10 rappresentanti su 15 della RSU, e a quel punto Marchionne ha detto per l'ennesima volta: ragazzi, se voi qui siete decisivi, se siete no, niente, si chiude. Dall'altra parte, e ho finito, le ultime novità delle ultime settimane sono che la FIOM, dopo un lungo esame delle vicende, degli accordi Pomigliano e Mirafiori, ha deciso di andare dal giudice, perché è convinta che l'intesa sulla quale la maggioranza dei sindacati e dei dipendenti ha votato e che consente la riassunzione con regole nuove, quelle dell'intesa dei dipendenti, violi il codice civile, perché configuri la violazione degli obblighi di riassunzione delle piante organiche precedenti in caso di cessione di ramo d'azienda. Attenzione, adesso tenteremo di capire questa manovra dell'impugnativa legale, che finisce per ridurre dopo anni di scontro vinto a maggioranza da sindacati e dipendenti contro la FIOM, come al solito si va dal giudice che decide tutto, perché il rischio è che se le impugnative poi dovessero dire: ragazzi, avete scherzato, perché tutto quello che è stato fatto secondo il giudice non va bene, a quel punto forse la Fiat può davvero dire: ragazzi, ma qua in Italia le condizioni per lavorare secondo noi non ci sono più. Ecco, questo è il quadro entro il quale avviene l'ascesa del capitale Fiat in Chrysler al 46%, che significa oramai che si arriverà al 51%. Chi sono gli ospiti con cui ne parliamo? Abbiamo con noi Giorgio Airaudo, che è responsabile nazionale auto della FIOM e torinese. Lo saluto da Torinese, buongiorno Giorgio Airaudo. Buongiorno a lei, Giannino. Maurizio Del Conte, che insegna diritto privato e diritto del lavoro alla Bocconi. Buongiorno, professor Del Conte. Buongiorno a tutti. Giorgio Ursicino, giornalista del Messaggero, che segue da anni con particolare attenzione il settore dell'auto. Buongiorno Ursicino. Buongiorno a voi tutti. Airaudo, cosa possiamo aggiungere, se posso chiederle, prima che del 46%, sulle impugnative giudiziarie? Perché ve ne siete convinti? Su quale base? Che cosa possono voler dire secondo lei? Ma noi siamo convinti fin dall'inizio che la Fiat abbia agito, diciamo, al limite delle leggi italiane e delle normative europee. L'abbiamo segnalato sempre, prima ai tavoli di trattative, poi in tutte le occasioni che abbiamo avuto e abbiamo sempre detto, prendendo un impegno con i lavoratori, sia di Pomigliano che di Mirafiori, che saremmo ricorsi anche le vie legali. Abbiamo aspettato i tempi per preparare ovviamente il nostro ricorso e abbiamo anche aspettato le occasioni negoziali. Noi abbiamo voluto verificare prima a Mirafiori se eravamo davvero di fronte a un caso Pomigliano, come era stato presentato, quasi che lì servisse una particolare rieducazione al lavoro, o se invece eravamo davanti a un modello generale. E Mirafiori ci ha confermato che siamo un modello generale. Abbiamo pure aspettato la trattativa Bertone, che secondo me è stata un'occasione persa dal punto di vista della Fiat, per aprire delle differenze rispetto agli stabilimenti, ai prodotti, alla diversa organizzazione del lavoro, e purtroppo alla fine, dopo una timida apertura di Fiat che è subito rientrata, ci siamo trovati allo stesso schema, quindi è un modello generale, uguali per tutti gli stabilimenti, indipendentemente dai mercati, dai prodotti e dalle condizioni di lavoro, e quindi abbiamo depositato il ricorso. Mi permetto una correzione rispetto a quello che lei diceva, Zannino: l'accordo del dicembre 95 non è mai stato votato dai lavoratori di Pomigliano. Perché l'accordo del dicembre 95 è quello che prevede l'istituzione della NUCO. Sì. La NUCO come condizione per superare il 2112 del codice civile, cioè il trasferimento di ramo d'impresa. Esatto. Cioè il fatto che ogni lavoratore passi con la sua storia contrattuale, con la sua storia salariale, con i suoi diritti da un'azienda all'altra nel momento in cui o si cambi società o si cambi proprietà. La Fiat a Pomigliano votò dentro le norme vigenti, poi non soddisfatta, non avendo raggiunto il 90%, ha immaginato di proteggersi con questi artifici e costituendo una società ad hoc, pur restando nello stesso stabile, con gli stessi lavoratori, facendo gli stessi prodotti. È questo che noi vogliamo che venga accertato. Il che, se capisco bene, potrebbe voler dire che per voi stessi che fate le impugnative, il caso di Pomigliano è una violazione degli obblighi del codice civile, stessa pianta organica in caso di cessione, più grave rispetto a Mirafiori, dove invece questa questione era esplicita al voto. È così, corretto? Beh sì, è diverso, nel senso che per adesso non c'è ancora, è stata costituita da poco tempo, per adesso non c'è ancora la nuova società di Mirafiori, sì. O meglio, è stata costituita da una settimana, Fabbrica Italiano Mirafiori, e non c'è ancora dipendenti. Peraltro, per presentare la causa noi abbiamo dovuto aspettare che la Fabbrica Italiana Pomigliano, Fabbrica Italia Pomigliano, avesse dei dipendenti. Oggi ha 12 dipendenti Fabbrica. Era chiarissimo che quelli fossero i tempi che stavate aspettando per la costituzione, appunto, sì, di queste cose. Ci va un ci va un oggetto formale, cioè certo, quando certo. Come si dice, la presunta violazione non si compie, uno non ha ragione di chiedere a un giudice un parere, ecco. Ecco, prima ho opinione flash, perché tanto abbiamo poi tutta l'ora davanti. La salita al 46%, il che significa 51 poi entro poco. Il fatto che ce l'abbia fatta in America è un indebolimento, come c'è cioè, chi critica sul fatto, come giustamente dice la dire dal suo punto di vista, perché ci indebolisce in Italia. Ma no, il problema è questo qui, che Marchionne, cioè noi abbiamo sempre pensato che Marchionne, nel momento in cui è entrato dentro l'acquisizione della Chrysler, questo non è un problema, abbiamo sempre considerato che fosse un'opportunità. Ovviamente l'opportunità ha bisogno di essere bilanciata con buone notizie italiane. Lei tenga conto che se guardiamo gli investimenti che noi conosciamo sui tre siti in cui Marchionne ci ha detto che vuole investire dei soldi, siamo a meno del 10% della cifra promessa per Fabbrica Italia, 20 miliardi, siamo sotto i 2 miliardi fino adesso conosciuti, ed è già passato più di metà del tempo. Quindi siamo esattamente inversamente proporzionali agli Stati Uniti, cioè mentre lui ha dimezzato il tempo di acquisizione della Chrysler, concentrandogli risorse, impegno, tempi, nuovi prodotti, l'Italia è come minimo una succursale, cioè siamo indietro, nel senso che noi non abbiamo i dettagli degli investimenti, abbiamo una cifra che entro il 2014 dovrebbe essere spesa e ad oggi conosciamo meno del 10% delle entità degli investimenti italiani. Io penso che il problema poi non sia Marchionne in questo caso, sia chi non ha controbilanciato il grande appeal americano, i grandi rapporti con la politica americana a partire dal presidente Obama, con un appeal italiano, non so come dire, cioè il rischio è che l'appetito vien mangiando. Eppure è possibile che Marchionne fosse disponibile a bilanciare meglio tra Italia e Stati Uniti, ma di là è attratto, ha il miele, ha le opportunità, ha le occasioni e i problemi più grossi, e di qua noi siamo un po' residuali, ecco. Però resta, questa è la mia opinione, resta il fatto che accelerare per pagarla di meno, prendersi la Chrysler e poi mettersi in condizione di avere anni un mercato mondiale di fronte un po' più solido, senza di questo è più difficile anche pensare all'Italia. Però il punto di vista vostro è quello di una battaglia che non è solo vostra, perché la realtà è che, come si è visto nell'informazione, nelle battaglie che avete condotto pezzo per pezzo della vicenda fino a questo momento, la mia opinione, che come noto sono su un'altra tesi, non è stata mai che sia solo una minoranza come la FIOM, per la sua storia e la sua tradizione, a dire: ragazzi, puntiamo i piedi, vogliamo saperne di più, ci sono regole da difendere e non bisogna dire solo viva l'America. Perché è bastato vedere quanto mondo accademico italiano, quanti osservatori, il Corriere della Sera, per essere chiari, Massimo Mucchetti è sulla stessa linea della FIOM, in realtà, tale e quale, e così via. Cioè, pezzi molto importanti del mondo italiano, dell'accademia, dell'università, degli intellettuali, ritengono che in realtà la battaglia della FIOM sia una battaglia sacrosanta e che ci sia qualcosa parecchio che non torna in questa vicenda. Io la penso diversamente, però è per pesare che questi argomenti e questa maniera di dire no è una maniera che in Italia ha molto consenso, viene considerata, al di là del fatto che poi si va a votare e i lavoratori a maggioranza la pensano in un altro modo. Sentiamo con il professor però Maurizio Del Conte, dal punto di vista del diritto, dal suo punto di vista, come interpretazione del diritto, queste impugnative che dicono la Fabbrica Italia nasce su presupposti di legge inaccettabili, io credo che se davvero il giudice dicesse questo, Marchionne, credo che quanto dice e ha detto fino a questo momento ce ne possiamo andare, credo che seriamente potrebbe questa volta riservarci la sorpresa di dire: sapete che c'è, se lo dicono anche i giudici, buonanotte. Ma dal punto di vista della legge, delle sentenze fino a questo momento accumulate, professor Del Conte, lei cosa si sente di dire sulle basi di queste impugnative? Guarda, mi sento di dire innanzitutto che c'è grande confusione sotto il cielo, perché l'azione che sta per preparare la FIOM è un'azione di condotta antisindacale, laddove il 2112 del Codice Civile prevede una tutela per i lavoratori, per i singoli lavoratori. Allora qui mi sembra che ci sia un po' di confusione di piani. L'azione per la repressione della condotta antisindacale si promuove, lo prevede lo Statuto dei lavoratori, nel caso in cui un determinato comportamento dell'azienda abbia come scopo e come risultato quello di ostacolare la libertà di espressione sindacale. Mentre l'articolo 2112 si occupa di un tema diverso, e cioè del trasferimento d'azienda e del diritto dei lavoratori di passare in quota all'acquirente nel caso in cui ci sia questo trasferimento. Allora, cosa significa? Significa che se davvero c'è questo trasferimento, diciamo così, simulato da parte di Fiat, e quindi, come diceva Iraudo prima, in effetti c'è una medesima unità sia dal punto di vista fisico, impianti, sia dal punto di vista della forza lavoro, allora dovrebbero essere i singoli lavoratori a proporre delle cause che, ai sensi del Codice Civile, in relazione al loro rapporto di lavoro, decidano se effettivamente la NewCo è una NewCo, cioè una nuova compagnia con una storia autonoma e separata rispetto alla precedente, oppure se vi sia una sorta di simulazione. In questo caso, se il giudice dovesse decidere che effettivamente c'è una simulazione, potrebbero ottenere che cosa? Potrebbero ottenere il passaggio alla NewCo, in realtà, alle medesime condizioni di prima, il che però, attenzione, non significa al medesime condizioni di contratto collettivo, perché lo stesso 2112 dice che il lavoratore che viene trasferito presso il cessionario si prende il contratto collettivo che applica il cessionario, cioè in questo caso sarebbe la NewCo stessa. E questa è una partita. Dall'altra parte invece c'è la partita della condotta antisindacale. Allora, la partita della condotta antisindacale si gioca su presupposti differenti, cioè se questa operazione nel suo complesso sia stata sostanzialmente finalizzata da Fiat per impedire l'attività sindacale. È questo il punto sul quale dovrà decidere il giudice. E allora qui la giurisprudenza dice che le imprese possono decidere della propria esistenza o non esistenza, cioè in altre parole il datore di lavoro può dire va bene, non sono obbligato, non sono forzato a mantenere in piedi una mia realtà produttiva, ne voglio costituire un altro. D'altra parte il giudice potrebbe dire questa nuova realtà è semplicemente una specie di trasfigurazione della vecchia realtà, ma ancora una volta, quando anche questa fosse la decisione del giudice, da lì a dire che c'è stata condotta antisindacale, beh, ce ne passa. La FIOM ha detto bene, prima Iraudo, noi abbiamo, riteniamo di dover fare la nostra parte sindacale, ma io credo che la battaglia sindacale si debba giocare sul piano sindacale, cioè si debba giocare sul piano delle relazioni industriali, che non sono non è il piano dell'articolo 2112 e non è il piano dell'azione legale. In questo modo, in questo momento, in realtà FIOM dovrebbe cercare di vincere delle partite sindacali se vuole imporre la propria politica, non di vincere delle sentenze che francamente non riesco nemmeno bene a capire quale risultato potrebbero ottenere. Il risultato, professor Del Conte, siccome come ha visto si è dovuto inoltrare nell'interpretazione di quello che può avvenire, sia pur partendo dal presupposto che il fine di questa impugnativa è quello di accertare e tutelare dall'eventualità di comportamento antisindacale, però lei ci ha detto questa roba non ha fondamento, quindi il giudice del lavoro potrà dare ragione alla FIOM. Il rischio è che a quel punto, se Marchionne e la Fiat alzano le tende, la FIOM abbia vinto e però i lavoratori abbiano perso. Airaudo, ricominciamo di qua e con Giorgio Musicino iniziamo poi anche a parlare di prodotti, modelli, quote di mercato, perché quelle nel paradosso scendono, stiamo tutti aspettando i mitici 54 nuovi modelli che arrivano, però intanto la quota scende, scende, scende. Pubblicità. Eccoci tornati in studio. Allora Airaudo, vittoria in tribunale, sconfitta per il lavoro? No, io non credo che sia così, anche perché qua si sta sollevando un tema un po' più grande, che peraltro incrocia con la nostra città, Giannino, per due vicende molto diverse. L'esito del processo Thyssen e questa causa sono ovviamente due vicende molto diverse, ma che ci pongono un tema, cioè se le imprese devono essere, per competere dal mercato, esentate dal rispettare le leggi. Però Raudo, sì, no, però non mettiamo adesso, lo sa. Non sono sullo stesso piano, figuri se io non lo so, che sono due cose molto diverse, ma casualmente io registro la coincidenza temporale, del tutto casuale. Allora, qua c'è un problema, cioè noi vogliamo sapere se Marchionne nel fare Legnuco ha rispettato le leggi italiane e le normative europee, che sono molto rigide sul trasferimento di lavoro d'impresa, per capirci. Perché uno può decidere di operare dove vuole, ma se ha bisogno di una condizione di diritto diversa. È chiaro, se no non fareste l'impugnativa, è esattamente questo il fine. Però se l'azienda dice, sentite, mancano le condizioni di cooperazione, per cui nel resto del mondo si dice... Ma la cooperazione non può essere la legge. Ho capito, ma se se ne vanno, cosa ci guadagniamo? Cosa ci guadagniamo se ce ne vanno? Noi intanto io poi mi permetto di far notare un'altra cosa. Che lei dice non se ne andranno mai. Ma no, non è che non se ne andranno mai, io penso, come si dice, che se ne stiano andando e che ci siano grandi responsabilità. E allora perché li accompagniamo invece di dire restate? Noi non li accompagniamo, noi vogliamo che le attività che loro fanno, dove investono, come le ho detto prima, loro ci hanno parlato fino adesso solo di una parte piccola dell'investimento di Fabbrica Italia, non ci hanno mai dato un tavolo generale, nessuno l'ha mai chiesto, cosa che invece hanno fatto in tutti gli altri paesi a partire dagli Stati Uniti, dove non hanno discusso stabilimento per stabilimento, ovviamente, ma hanno discusso di tutto ciò che facevano negli impianti della Chrysler americani e canadesi, ovviamente. Però lei lo sa che lì era perché c'era il governo americano che aveva messo i miliardi. Ho capito. capito? Infatti qua il problema che abbiamo è che non c'è il governo. Ma no, per fortuna non glieli diamo più, glieli abbiamo dati per un secolo. No, però Airaldo, su questo la pensiamo Danilo, diversamente. Danilo, guardi, io sarei stato contentissimo, non so lei, se si faceva una grande riforma liberale in questo paese, cioè che si davano un po' di soldi e glieli si chiedeva indietro, come Marchionne li sta restituendo all'11% di interesse al governo americano. E quelli non ce l'avevamo in cassa. Per tutto il sistema, mica solo la Fiat, come lei sa, prende soldi. Chiaro. Tre quarti dell'imprenditoria italiana che gli ha presi negli ultimi 30 anni. Poi misura abbondante la Fiat, come è noto. Quindi noi vogliamo solo che la Fiat investa nel rispetto delle leggi. Se ha rispettato le leggi, il problema non si pone. Se non le ha rispettate, si adeguerà alle leggi e continuerà a fare. Scusi, il problema è che secondo me, di fronte alle impugnative, perché finché si vince a stretta maggioranza nel voto degli stabilimenti, il progetto va avanti. La volta che il giudice del lavoro dice siete fuori, la mia opinione è che Fiat se ne vada all'Italia. Dopodiché noi saremmo contenti di essere il paese più legalitario del mondo, dove solo da noi applichiamo le norme a maggior salvaguardia di nessuno che ci viene a investire. Sarà un problema che ci porremo allora, però secondo me il rischio concreto esiste. Però Airaldo, io sono concreto, non sono di quelli che dice attenti, siccome l'azienda minaccia allora bisogna fare come dice lei. Io dico che dobbiamo ragionare, cioè io rispetto il fatto che voi la pensiate diversamente, andiate al voto, accettate sia pure torto collo l'esito del voto che perdete e continuate a trovare altre possibili strade per affermare il vostro punto di vista, perché è così che si fa in una società ordinata e democratica, e quindi non è che si può dire siete fuori dal mondo. Mi pare che però il rischio sempre più concreto è che andiamo verso la perdita di una roba che se ne va in 100 anni per la prima volta, e ci riesce pure, sia pure senza prodotti, avendo poco da investire, però sta ponendo le basi in America per avere adesso di nuovo da investire. Questo è il punto, secondo me, da tenere in considerazione. Il rischio è che noi diciamo, in nome della legalità e di una maniera di fare relazioni industriali che è solo italiana, perché questo è il punto, noi difendiamo questa specificità convinti che sia la frontiera più avanzata del diritto e della concertazione sindacale. Peccato che a quel punto la gente da fuori non verrà più a investire e persino gli italiani se ne vanno. Il rischio c'è, ma capisco che lei dica lo dobbiamo affrontare. Allora Ursicino, nel frattempo cosa succede sul mercato? Perché le quote scendono? Credere o non credere, come è chiaro che Fiom e i critici e tanti altri, non solo la Fiom, non credono al fatto che poi questi 54 nuovi modelli arriveranno presto in maniera di ritirare sulle quote. Ursicino, che dice? Ma io vorrei aggiungere qualcosa a quello che avete detto voi, che da parte di ciascuno mi trova per certi aspetti abbastanza d'accordo, però il punto mi sembra non è tanto se ne andranno quanto se torneranno, perché in realtà se ne sono già andati. L'anno scorso, anche l'anno precedente, la produzione industriale italiana di auto ha superato di poco il 500.000 di unità, quando il nostro mercato fino al 2008 assorbiva 2.500.000 di veicoli. Quindi nonostante la nostra grande tradizione automobilistica alle spalle, la Ferrari, la Formula 1, i 100 anni della Fiat, come siamo costretti ad importare energia, perché chiaramente il nostro non è un paese produttore di energia, siamo così costretti anche ad importare le automobili in una maniera molto consistente. Quindi questo piano Marchionne di Fabbrica Italia in realtà era, se si riuscirà a attuare, ma chiaramente non è facile perché i punti di attrito sono numerosi, era per triplicare la produzione italiana e riportarla a 1.500.000. È noto a tutti che alcuni stabilimenti della Fiat che figurano come operativi in realtà sono abbastanza chiusi da tempo e i dipendenti in cassa integrazione, la stessa ex Bertone, Pomigliano e tutto quanto il resto. Quindi questo era un passaggio per cercare di riportare la produzione in Italia. In realtà, al di là delle leggi che sono sacrosante, al di là delle posizioni sindacali che lo sono altrettanto, purtroppo ci si trova di fronte a una situazione di mercato aperto, globale, internazionale, di fronte al quale è difficile fare una trattativa esasperata, perché per poter fare una trattativa bisogna avere un'alternativa. Quindi se Marchionne non ci piace, le sue condizioni, lo mandiamo da un'altra parte e noi ci prendiamo la Nissan piuttosto che la Renault oppure qualche altra cosa. In realtà qui non c'è alternativa e non c'è lontanamente neanche, cioè l'alternativa al consumatore continuerà ad averlo e ci crede sempre di più, è il lavoratore che non ce l'avrà, questo è esattamente il punto. È la produzione che non ce l'avrà, il mercato ce l'avrà, anche se bisogna anche riconoscere per poi andare al mercato, che la domanda che tu mi facevi, che il nostro mercato purtroppo, sempre per le condizioni globali e anche un po' per motivi contingenti di una crisi economica che probabilmente nel nostro paese è un po' più forte che in altri, però ha subito uno shock termico negli ultimi due anni veramente forte, e qui rispetto a prima, secondo me, si inserisce una variabile molto importante che bisogna tenere presente, cioè prima le crisi erano cicliche, però il nostro paese, il nostro mercato era considerato il quarto più importante del mondo, dopo gli Stati Uniti, il Giappone e la Germania, lo è stato per anni. Quindi in qualche modo tutti i grandi costruttori internazionali ponevano per il nostro paese dei volumi consistenti, quindi alla fine quelle vetture in qualche modo venivano vendute, alcune volte promosse, spinte con i chilometri zero e tutto quanto il resto. Con questo nuovo scenario, dove molte delle fabbriche viaggiano a pieno ritmo perché ci sono dei mercati che crescono in maniera strepitosa, e il nostro paese ha perso di importanza anche dal punto di vista commerciale, e quindi credo che innanzitutto c'è da dire che la previsione di quest'anno di scendere un ulteriore 10% rispetto all'anno scorso e attestarsi su 1,850 adesso inizia ad essere fortemente in dubbio, non solo per i dati di marzo, ma perché da marzo, quando è finito il confronto del periodo precedente dell'anno scorso in cui era possibile ancora immatricolare le vetture con gli incentivi, ma anche aprile, in realtà gli ordini, tutti gli indicatori dicono che gli ordini non sono in calo. E quindi, in altre parole, la prospettiva che era quella di un calo del 10% se non presente è troppo ottimistica, il calo sarà maggiore quest'anno da quello il che capiamo. Il calo è molto probabile che sia maggiore e si farà molta fatica ad arrivare a 1,850. E voi capite quindi che in queste condizioni, se per caso si va al fatto che la Sida se ne va, qual è l'altro produttore grande con una prospettiva mondiale che è interessato a dire veniamo a vedere gli stabilimenti se Fiat se ne va a prenderli? Punto interrogativo, ecco. Su questo io posso essere d'accordo, la strategia che doveva avere industrialmente l'Italia non era quella della sensibilità al produttore nazionale, era quella di avere una strategia multimarketing per andare a chiedere a concorrenti anche l'interesse, come costruire gli incentivi, le condizioni per dare ruolo all'eventualità di siti produttivi interessanti nel nostro paese. Questo non è mai stato fatto, mai, ci ha consegnato in condizioni di essere captive rispetto a Fiat per lunghissimi anni. Oggi non è più così, perché i soldi pubblici sono interrotti, paghiamo il prezzo però di una politica industriale per tanti decenni concepita e praticata e difesa dai grandi giornali italiani come favore alla Fiat. Adesso il problema è che se la Fiat industrialmente stabilirà di andarsene, il problema è che qui l'alternativa non ce l'abbiamo. La Gran Bretagna tanti anni fa, con la tanto vituperata Thatcher, disse: a me della bandiera nazionale dei produttori di auto britannica frega niente se perdono soldi, il problema è continuare ad avere manifattura che produce con stabilimenti e dà lavoro in Gran Bretagna e continua a farlo. La Gran Bretagna produce molto più automobili di noi oggi, e il problema è che non sono più tutti produttori nazionali come un tempo, tutti falliti o venduti i marchi, ma sono i grandi gruppi internazionali. Che cosa è meglio? Io dico la Gran Bretagna. Noi invece vogliamo la bandiera nazionale, e che per di più i produttori nazionali però non obbediscono alle regole del mercato globale, ma grazie al fatto di prendere soldi dai contribuenti si adottino un concerto sindacale e delle norme di diritto tali che li isolano dal mondo. Poi noi possiamo credere di essere il paese migliore del mondo, però non siamo proprio il più competitivo del mondo, e questo è il dubbio. Sentiamo qualche ascoltatore. Roberto da Pordenone, come la pensa? Ma Roberto da Pordenone ha una domanda molto semplice per il rappresentante della FIOM. La penso molto, molto come lei, che mi ha anche anticipato su certe cose. La sostanza è questa: la FIOM sta dando l'opportunità alla Fiat di fare quello che vorrebbe fare, cioè andarsene. Qual è l'alternativa? L'alternativa è che le fabbriche verranno chiuse, non ci sarà nessun gruppo automobilistico mondiale che verrà a produrre in Italia, perché non avrà nessuna voglia di scontrarsi con la FIOM, non con i sindacati, con la FIOM, e il risultato pratico sarà un ulteriore declino della nostra nazione. Domanda precisa per Eraudo. Graziano da Palermo, prego Graziano. Buongiorno. Io dico che ieri è stata una grandissima giornata per la Fiat, non per l'Italia. Assolutamente, anche il motivo. La Fiat, noi continuiamo a immaginare una fabbrica italiana automobili di Torino, sì. È una cosa ben diversa. E lei all'inizio della trasmissione diceva a utilizzare il mercato tra Fiat e così via. E oggi è stato messo un altro tassello del mosaico del signor Marchionne, che è quello di piano piano spostare dove è più proficuo, dove è più profittevole la produzione. Graziano, io le devo chiedere solo di essere sintetico, perché si perde una parola su due, quindi se arriva al punto scandendo è meglio. Adesso penso di mettermi in ecco, sì, sì. Volevo dire... No, non si sente meglio per niente. E abbiamo capito solo, la Fiat sta facendo un tassello per andarsene, e però abbiamo perso la conclusione. Emilio da Milano, prego. Sì, buongiorno. Una parte delle cose che volevo dire l'ha già dette il giornalista prima. Ma io sono convinto. Quando che, dice che la Fiat se ne sta già andando dall'Italia, era quello che intendeva. Assolutamente se ne sta andando. Marchionne pretestuosamente sta cercando di fare questa cosa. Ma pretestuosamente lui vuole andare dove si prende la base commerciale, industriale che non ha mai avuto, dove mette le basi per continuare a stare nel mondo. Lei dice pretestuosamente, ma come si fa a dargli torto? Scusi. Ascolti, signor Danilo, sì. Il problema è che la Fiat è sempre stata protetta all'inverosibile in Italia. Figurati, io ho preso tanti di quegli schiaffi perché ero tra i pochi a dirlo. Ha preso tanti di quei soldi. C'era il protezionismo in Italia, io ho 61 anni, me lo ricordo. Certo. C'era il protezionismo in Italia, sì. E per anni ha fatto quello che ha voluto. Nonostante tutto, quando le lotte erano acerrime, la Fiat vendeva tantissimo. Il problema non è quello, il problema è che oggi i mercati... Il mercato è saturo, quindi Marchionne l'ha capito, va in Brasile dove gli danno i soldi. No, in Brasile c'era da prima, senza il Brasile che faceva utili, gli stabilimenti che perdono da 15 anni in Italia non restavano aperti. Non è che va in Brasile Marchionne, in Brasile c'era da prima. Per fortuna che c'era il Brasile e la Polonia, sennò Fiat Auto non stava in piedi, era già fallita, anche prima ancora di chiamare Marchionne. Però anche, come vede Airaudo, basta aprire i microfoni e... anche gli ascoltatori di Radio 24, quelli attivi, chiamano e vi danno ragione. E questo è quello che poi io testimonio da sempre, che questo è un paese nel quale l'idea della battaglia contro l'impresa che pretende di dire ci sono regole diverse, globali, è una battaglia che ha molto consenso. Il paese è così nel nostro paese. Io non mi permetto di giudicare, dico solo che poi ci sono dei costi da pagare. Riprenderemo di qua dopo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio. Airaudo, gliel'ho detto, io devo spendere una parola, però prima di chiedere di rispondere ai consensi come alle obiezioni, devo spendere una parola su un tema che a me preoccupa sempre, che riguarda gli altri sindacati, la CIS, la UIL, l'UGL, la FIBMC. Quelli che hanno messo la firma all'intesa hanno rischiato la faccia dei loro leader nazionali, oltre che quelli di categoria, e che poi quando si va a votare prendono la maggioranza. Lo so, la maggioranza, la vostra tesi è che sia sotto minaccia dell'azienda, dei posti di lavoro, che non sia così che si vota, però prendono la maggioranza, si espongono. Mi pongo sempre il problema che in questo dibattito in cui si polarizza su di voi l'obiezione, è come dire che loro sono dei venduti, che non sanno fare il loro mestiere, che sono è gente che non ha l'idea che la globalizzazione e le regole nuove sono semplice dover dire sì al padrone. Ed è una cosa che a me, per il rispetto che ho per la CI, per la UIL, per quello che so che sono nella storia di quegli stabilimenti, la gente che conosco, è ovvio che mi ribolle il sangue come ribollirà a loro. E non posso credere nemmeno che per voi, che vi lasci indifferente questa roba qua, tenga presente anche di questo nel darci una risposta a chi dice il primo ascoltatore almeno. Sì, ho capito, stanno aiutando Marchionne, che forse se ne vuole andare sin dall'inizio perché non ci ha mai creduto alla produttività dell'Italia. Ma io guardi, ovviamente ho un'altra opinione. Io penso che Marchionne vada portato a negoziare, come ha negoziato negli Stati Uniti, lì c'era il governo, qui non c'è, l'abbiamo capito perché non ha un picco da metterci, dice lei. Io però penso, come si dice, che Marchionne vada poi a negoziare. Credo che non sia un caso che Marchionne abbia iniziato dagli stabilimenti scarichi di lavoro. Ovviamente non gli è venuto neanche per la testa di sollevare un problema a Cassino a Melfi, dove c'è la produzione degli unici modelli che ha e degli unici che gli tengono le quote. Certo che doveva pure. Ma adesso ci deve arrivare, dottor Giannino, ci deve arrivare, capisce? E io penso che Marchionne abbia lavorato in modo molto spregiudicato. Lui è un bravo giocatore di poker, è un manager anglosassone, uno molto chiaro e trasparente, meglio trattare con lui e porta a casa il risultato. Però bisogna trattare, la trattativa non c'è stata, mi creda. Purtroppo siamo di fronte in quegli stabilimenti, da Pomigliano alla Bertone, passando per Mirafiori, a degli ultimatum. o così o nulla. Con gli altri sindacati la cosa è molto semplice, c'è una differenza di valutazione. Io non penso assolutamente che siano venduti, penso che, come si dice, abbiano scelto una via un po' più facile, che è quella di dire va bene, prendiamo quel che lei ci dà. Io penso che invece in questo paese, a Marchionne, proprio per come è Marchionne, proprio perché è molto impegnato a una internazionalizzazione di Fiat e alla conquista dell'America, per semplificare e banalizzare, si poteva in Italia contrattare, pretendere un po' di più. Poi penso che le imprese devono rispettare le leggi dei paesi in cui sono, oppure devono chiedere che i governi cambiano le leggi, cioè che questi governi possono anche cambiare le leggi, però le devono cambiare. Quindi io penso che Marchionne verrà portato a negoziare, penso che l'Italia non debba spaventarsi delle minacce, penso che i lavoratori italiani negli stabilimenti Fiat, nonostante la grande pressione, e negli stabilimenti in cui il rapporto contrattuale era più debole, come Napoli, come Pomigliano, come Mirafiori, come la Bertone, che è la più debole di tutti per la condizione in cui altro è. Che, altro che. Ecco, quindi i rapporti di forza sindacali tradizionali, classici, non sono esprimibili. Nonostante questo, noi abbiamo una grande spinta a dire andate avanti, chiedete, fate, perché il rischio è che questi lavoratori diano disponibilità di pause, di turni, di sacrifici, ma nonostante questo la deriva, non perché Marchionne è cattivo, ma perché semplicemente i capitali stanno negli Stati Uniti e lì ci saranno più risorse, più spazi, certo, le quote certo di mercato degli Stati Uniti vengono attratti, non saranno i 10 minuti a salvare gli Stati Uniti. Ma vabbè, ma però sono i 10 minuti che li fanno ritornare inutile, molto probabilmente no, per produrre vero, su pianali senza, che se non ci fosse l'America non ci sarebbe, perché Alfa Romeo, Giulietta, lo sa meglio di me che qua stiamo importando pianali e cose da loro, questa è la prospettiva. Come si dice, però, che non stiamo sviluppando nessun prodotto per il mercato europeo, come so che lo stabilimento polacco di Tici produce all'85% esatto per il mercato italiano. Italiano, è certo, perché quello chiaro, perché lo produce a regole diverse. Se togliamo l'Italia alla Fiat dall'Europa, in sì Europa la Fiat non esiste, ha meno del 3% del mercato. Oggi è così, lei certo fa la simulazione. Oggi è così, sì, ma non c'è dubbio, oggi è così. Allora, qua c'è un problema, tutto questo nell'ultimo anno era evitabile? Secondo me sì, se ci fosse stato un po' più di coraggio sindacale, di unità, un po' più di protagonismo del governo, si costringeva Marchionne a un negoziato che quantomeno gestiva questa transizione. Airaudo, lei resta di questa idea e dice anche se perdiamo noi resteremo convinti. La mia opinione è che questa volta no, io penso che siamo gli unici che provano a difendere la Fiat no, d'Italia. No, ho capito, dico anche se anche perdiamo la Fiat, non i lavoratori. Va bene, può essere. La mia penso opinione noi siamo la polizza assicurativa del paese. Guardi, questo non lo so, però insomma capisco il vostro punto di vista. La mia opinione è che proprio perché si è arrivati al 51 c'è davvero questa volta una prospettiva globale complessiva, con una crisi che torna all'utile e che ha una pluralità di piattaforme rispetto al mercato americano, e per tentare di porsi il problema che la Fiat è il grande problema irrisolto, perché in Cina non c'è niente e hanno sbagliato tutto, Russia tutto da costruire, è andata per aria l'intesa che c'era, cioè sui mercati emergenti a grandi volumi, mentre i tedeschi sono lì e piazzano botte di decine di punti della loro produzione mondiale e sono leader per quello, noi abbiamo sbagliato tutto perché la Fiat non c'aveva soldi. Ma detto questo, ora che hanno costituito le condizioni per guardare al futuro da grande gruppo mondiale come non è mai stato, la mia opinione è che questa volta la cosa di dire sentite l'Italia è fondamentale, però a queste regole per noi non lo è, io credo che sia da prendere molto sul serio. La mia opinione è che non è una minaccia, perché io difendo tutti i grandi gruppi di ragionare per concorrenza comparata, convenienza e rendimento comparato. È così che funziona il mondo, secondo me è così anche che si soddisfano al meglio le domande dei consumatori. Dopodiché è un confronto tra chi dice che in Italia questa regola non deve valere, vale nel resto del mondo, il resto del mondo è incivile, è indegno, noi siamo più civili. Può essere benissimo e che io mi troverò in minoranza, può essere però che quel giorno, trovandomi in minoranza, avremo rinunciato a una presenza nella manifattura italiana, ma non della Fiat, badate bene, ma della manifattura auto complessivamente. Avremo solo l'indotto auto, che si è specializzato in questi anni, è diversificato, produce sempre di più per la concorrenza, se no sarebbe andato a gambe all'aria, produce per BMW, per Daimler, grazie al cielo, ma lo faremo per altri, avendo perso qui la manifattura non fatta solo di assemblaggio, fatta della capacità di avere centri direzionali, di elaborazione di strategie di maggiore efficienza energetica dei motori e così via. Questo è un rischio concreto e io lo dico, come avete visto, la radio di Confindustria, avendo preso Giorgio Airaudo e avendo è dato un'ora per consentirvi di riflettere meglio con lui che parla senza mediazioni e senza altre controvoci sindacali, per consentire a tutti di ragionare come si fa in un paese democratico, aperto, e la mia opinione però è anche un paese che forse dovrebbe fare un po' meglio i conti. Lo dico con rispetto per Araudo, per Cremaschi, per la FIOM, però con rispetto almeno uguale per CISL, UIL e tutti coloro che dicono il mondo è cambiato e quindi bisogna fare sindacato anche in una maniera diversa. Grazie a Giorgio Araudo, a Maurizio Del Conto, a Giorgio Ursicino, grazie a voi tutti e agli ascoltatori che non ho mandato in onda. Buon venerdì santo, appuntamento a Pasquetta, perché naturalmente io vado in onda comunque, Linea Generale Radio.